In questo consiste l'amore di Dio, l'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio?